se me lo vuoi dicendo, non tendere, le comparazioni sono odiose, però nel mondo, diciamo, questo mondo barocco, io non lo considero un artista barocco, lo considero un artista, un direttore. Uno, tecnicamente è molto chiaro, se dirige come un buon direttore moderno, molto meglio che molti direttori moderni. E sono essendo un direttore moderno che viene del barocco, e con lui. Io penso che può essere qualche repertorio, perché è molto chiaro, lavora con una rapidez incredibile, concentra molto l'attenzione, cautiva molto l'attenzione dei musici, stressa molto, però dà soddisfazione, perché quando dopo di pedir molto, vedi che la gente sta sudando con lui, lo ensayo, perché non te deja un secondo, e è molto simpatico, sempre Sì. facendo ciste, bueno, parla molto rapido in inglese, però sta sempre facendo ciste, però al stesso tempo ti sta facendo lavorare come una bestia, però la gente si dà conto che il risultato è buono e dice, bueno, sto sudando, però che Pero qué bonito, bonito che se. bien, merece la pena, e l'orchestra sta incantata con lui. Bueno, La ora acabo di venire da Alemania e giusto mi incontrai con un par di musici dell'orchestra della Camera di Stuttgart, mi preguntarono, ah, che vas a fare? E dice, ai, che bien, Richard Haga, nosotros hicimos un programma con lui, e gli stiamo supplicando di rodilla per gravare tutta la Sinfonia di Beethoven con la Sì, Stuttgart, con l'orchestra della Camera di de Stuttgart, Camel Stuart, e lo chieren che graven tutto Beethoven con lui.